Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Legge antiomofobia, una risposta a Piero Stellino. Premetto che leggo spesso il Corriere della Sera e ho apprezzato in molte occasioni le analisi politiche di Piero Stellino. Quanto segue non ha quindi nessuna finalità polemica nei suoi confronti, vorrei solo proporgli delle riflessioni sul suo articolo «Gli errori della legge antiomofobia» pubblicato dal Corriere della Sera il 3 agosto del 2013, partendo dall'esperienza di un gay come me, maturate attraverso il contatto quotidiano con persone gay di tutte le età. Nell'articolo si legge: «Non riesco a capire perché picchiare un omosessuale sarebbe un aggravante, mentre picchiare me, che sono, virgolato, solo un essere umano, sarebbe meno grave». L'obiezione di principio, e mi permetto di rispondere con dati di fatto, non presupponendo, come fa Stellino, che il mondo sia fatto di persone dotate di normale senso comune, per le quali l'omosessualità non è nemmeno un vizio. Purtroppo, come Stellino sa benissimo, alcune categorie di persone, che in una società di persone di normale buonsenso sarebbero trattate come tutte le altre, nella nostra Italia non sono affatto trattate come tutte le altre. L'esempio dello spaventoso numero di femminicidi, secondo una logica giuridica che guardi alla realtà, non dovrebbe portare all'idea che, dato che in un paese di persone di normale buonsenso le donne dovrebbero essere trattate come tutte le altre persone, allora è bene che non ci sia una norma penale specifica a tutela delle donne. Dovrebbe invece condurre alla conclusione opposta, e cioè che, dato che le donne sono una categoria di persone che di fatto è frequentemente vittima di delitti, è giusto che godano di una tutela penale rafforzata. Seguendo la logica proposta da Stellino, l'espansione indiscriminata dei diritti comporta più rischi che vantaggi, queste le sue parole, si dovrebbe richiedere l'abolizione di tutte le tutele speciali introdotte dalla legge Mancino contro le discriminazioni razziali, etniche e religiose, cosa che Stellino non fa, limitandosi a suggerire la rischiosità di estendere la tutela anche agli omosessuali. Chi vive da molti anni a diretto contatto con gli omosessuali di tutte le età sa bene che la discriminazione è reale e che purtroppo si arriva spesso a vere aggressioni di tipo omofobo. Stellino sostiene che l'omosessualità non è un diritto e che, virgolato, trasformarla in un diritto giuridicamente protetto non ha alcun senso, perché, così continua, ad una persona di normale buonsenso non verrebbe mai in mente, nel mondo in cui viviamo, non dico di picchiare, ma neppure di insultare e di discriminare un omosessuale. In effetti, seguendo questa logica, siccome ad una persona di normale buonsenso non verrebbe mai in mente di uccidere o di stuprare, l'omicidio e lo stupro non avrebbero bisogno di nessuna tutela penale. Certamente l'omosessualità non è un diritto in sé, ma essere omosessuale senza essere discriminato costituisce l'esercizio di un diritto generale di libertà. La legge a tutela dei cosiddetti diritti dei gay è solo una legge a tutela del diritto di libertà di tutti, e trova la sua motivazione proprio nel fatto che gli omosessuali sono purtroppo spesso oggetto di discriminazione e anche di violenza. Certo, non da parte delle persone di normale buonsenso, ma da parte di quella consistente percentuale di persone che di quel normale buonsenso è terribilmente carente. La sanzione penale specifica dei comportamenti omofobi deriva dal fatto che gli omosessuali sono oggettivamente molto più soggetti di altre categorie di persone all'aggressività delle persone carenti di normale buonsenso. Ho inviato queste mie riflessioni per email a Piero Stellino, confidando in una sua risposta, che purtroppo non è pervenuta. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.